Mercoledì, quarta settimana. Vespri. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Inno. Artefice e Signore della terra e del cielo, aurora inestinguibile, giorno senza tramonto, dona alle stanche membra la gioia del riposo, e nel sonno rimargina le ferite dell'anima. Se le tenebre scendono sulla città degli umili, non si spenga la fede nel cuore dei credenti. Te la voce proclami, o Dio trino e unico. Te canti il nostro cuore, te adori il nostro spirito. Amen. Prima antifona. Come splende la tua sapienza su di me, o Dio. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua, e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi, e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure. E la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come splende la tua sapienza su di me, o Dio. Seconda antifona. Tu mi conosci nell'intimo, Signore, e dai a ciascuno secondo le sue opere. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati, quando ancora non esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio. Se li conto, sono più della sabbia. Se li credo finiti, con te sono ancora. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu mi conosci nell'intimo, Signore, e dai a ciascuno secondo le sue opere. Terza antifona. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.

benedici coloro che hai chiamato alla castità perfetta per il regno dei cieli. Seguono il Cristo tuo Figlio con la generosità dei santi. Si rallegrino quanti sperano in te, Signore. Tu che hai creato l'uomo e la donna, fa di ogni famiglia una vera comunità fondata sull'amore sincero. Si rallegrino quanti sperano in te, Signore. Hai distrutto le nostre colpe mediante il sacrificio del tuo Figlio. Concedi ai defunti il perdono e la pace. Si rallegrino quanti sperano in te, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Orazione. O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di giustizia. Ricordati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra povertà nella ricchezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedizione finale. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.